Focus Economia. Buona serata da Valentina Furlaneto, benvenuti a questo appuntamento con le notizie economiche della giornata. In apertura di puntata andremo a Roma, dove si è tenuta oggi l'assemblea degli industriali. Il ministro dell'economia Tremonti ha mostrato ottimismo sulla crescita nel 2010, ha detto il PIL italiano potrebbe salire dell'1% o anche di più. Poi ha parlato di riforma fiscale, rimandandola alla fine della legislatura. Sotto traccia si registra ancora il dibattito interno alla maggioranza fra una politica di maggior rigore e una politica di spesa. Ha parlato della crisi e della ripresa anche il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Il peggio alle spalle, ha detto, ma andiamo verso un ritorno molto graduale alla crescita senza creazione di posti di lavoro. E la preoccupazione per i lavoratori ci porta anche in Sicilia, dove si parla del futuro dello stabilimento di Termini Imerese. Si intrecciano sempre di più le vicende dello stabilimento siciliano a rischio chiusura e il rinnovo degli incentivi per l'acquisto di auto nuove. Ci occuperemo anche delle difficoltà che stanno vivendo le aziende che offrono servizi di call center. Come ogni giorno poi ci sarà spazio per i mercati. Vi dico subito, mercati oggi negativi. Il FTSE All Share ha ceduto, cede lo 0,81%, meno 0,8% per il FTSE MIB. Negativi anche gli altri mercati in Europa, anche se Milano è la peggiore. New York, Wall Street, il Dow Jones cede lo 0,28%, il Nasdaq lo 0,43%, Wall Street è appesantita dalla revisione al ribasso del PIL del terzo trimestre in particolare. Il numero per mandare degli SMS è il 349-238-6666, ma ora vediamo le altre notizie della giornata in breve. Partiamo come sempre dalle materie prime, in particolare dal petrolio, che ha aperto in ribasso a New York, meno 0,4% a $77.25 al barile. E dal petrolio passiamo all'oro. Dopo giorni di record, l'oro in flessione in Asia a $1,158.28 l'oncia. Le notizie che riguardano l'economia internazionale, in particolare le previsioni per una ripresa dopo la recessione, una consistente revisione al ribasso, dicevamo, della crescita americana, arriva dalle stime del terzo trimestre 2009. Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è stato rivisto al ribasso a più 2,8% in base alla seconda lettura, dal più 3,5% della prima stima. Il dato comunque è in linea con le stime degli analisti. E anche dalla Germania si hanno dati che riguardano il PIL del terzo trimestre, aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, diminuito del 4,7% sul terzo trimestre 2008. L'Istituto di Statistica ha così confermato la stima diffusa lo scorso 13 novembre. E un retroscena che riguarda la crisi arriva dall'Inghilterra. La banca d'Inghilterra, all'indomani del crollo di Lehman Brothers, che fece precipitare, lo ricorderete, la crisi finanziaria, tenne in vita i gruppi HBOS e Royal Bank of Scotland con prestiti segreti pari a 62 miliardi di sterline. I dettagli del piano di salvataggio sono stati resi noti solo oggi dalla banca centrale. Questo perché il governo ha voluto evitare il panico dei mercati finanziari. I prestiti comunque sono stati interamente ripagati dalle banche entro la fine dell'anno, ovvero entro la fine del 2008. Andiamo in Italia dove, come dicevamo, ci sono stime di ripresa, anche se lenta, per il 2010, lo ha detto il ministro dell'economia Tremonti, ma ne ha parlato anche il ministro per lo sviluppo economico Scajola. Ci sono segnali di ripresa, gli indicatori, ha detto Scajola, dicono un più 1,1, più 1,2 di ripresa, questa è la forchetta, di ripresa del PIL italiano nel 2010. È un dato basso, continua il ministro dello sviluppo economico, significa che per tornare ai valori del 2007 ci metteremo 4 o 5 anni. In questo modo c'è il rischio che la lentezza del recupero possa renderci meno competitivi nella sfida con gli altri paesi. Il ministro ha parlato anche del settore auto, di cui ci occuperemo intorno alle 17. Ha ribadito in pratica quello che aveva già anticipato ieri. Per il 2010, dice Scajola, è possibile che vengano ridotti gli incentivi erogati al settore auto per favorire invece altri settori industriali. Ne ha parlato a Dubai. Per il settore auto ha detto: ritengo che gli incentivi saranno inferiori all'anno scorso, gradualmente a rientrare per non distorcere il mercato. Allo stesso tempo riteniamo che non possano essere interessati a questo sistema anche altri settori industriali in crisi, fra i quali ad esempio quello del mobile o degli elettrodomestici. E poi ha parlato dello stabilimento di Termini Imerese, il ministro per lo sviluppo economico. Sarebbe folle far morire un polo industriale come quello di Termini Imerese, su cui nel tempo sono stati fatti investimenti importanti. Ne parleremo appunto alle 18. Concorda anche Maurizio Sacconi, ministro del lavoro. Parla Scajola per tutti noi riguardo a Termini Imerese. Così ha commentato il ministro Sacconi le dichiarazioni del ministro dello sviluppo economico Scajola. Per quanto riguarda il lavoro, da registrare anche una dichiarazione del presidente dei giovani di Confindustria, Federica Guidi, che ascoltiamo al microfono di Maria Chiara Grandis. Io credo che sarebbe auspicabile una revisione dello statuto dei lavoratori. Credo che abbiamo uno strumento in mano vecchio, datato, obsoleto, il che non vuol dire rivedere uno strumento significa rivederlo nelle logiche di un mercato del lavoro che evidentemente è cambiato, ma questo lo stiamo vedendo tutti, di una situazione diciamo congiunturale. Cioè le aziende una volta lavoravano con un portafoglio ordini che era di 12 mesi, 18 mesi, oggi si lavora con un portafoglio ordini di 3 settimane. Non è meglio o peggio, è diverso. Servono strumenti gestionali, professionali, tutti gli strumenti, dalle macchine alle persone, al rapporto di lavoro, a chi le aziende le gestisce. Serve una testa, una mentalità e una diversità diciamo di strumenti che non è né meglio né peggio, è semplicemente qualcosa che credo dopo un po' di anni, forse come tante cose in questo paese, abbia bisogno di una manutenzione. Naturalmente questo non significa diciamo togliere le tutele o lavorare solo da una delle due parti, significa prendere in mano uno strumento che io ritengo quantomeno vecchio, obsoleto, e forse uno statuto che porti verso all'occupabilità, al fatto di avere un'occupazione reale. Federica Guidi, presidente dei giovani della Confindustria, ha parlato a un convegno che si è tenuto a Roma, organizzato da Business International, che ha presentato anche un sondaggio fra gli imprenditori. Business International ha interrogato 50.000 aziende, 180.000 imprenditori. Cosa ne esce? Beh, riguardo alla crescita c'è un certo ottimismo. Il 45% degli imprenditori si aspetta nel 2010 un aumento del fatturato, il 30% si aspetta invece risultati inferiori alle attese. Per quanto riguarda il lavoro, solo il 19% di queste aziende vede un incremento dell'occupazione, il 26% invece una diminuzione, quindi viene ribadita la preoccupazione per il lavoro. L'84% per quanto riguarda il giudizio sull'operato del governo ritiene le politiche sinora adottate dall'esecutivo non sufficienti. Il ponte sullo Stretto. È stata rinviata all'11 gennaio del prossimo anno la presentazione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, prevista per il 26 novembre prossimo. Il rinvio, è scritto in una nota della società Stretto di Messina, è stato deciso per sopraggiunti impegni di governo del ministro per le infrastrutture. Una notiziola che riguarda le difficoltà del sistema giustizia, difficoltà dal punto di vista dei conti, anche delle spese. Manca la benzina per il cellulare che deve portare i detenuti in aula. A Palermo salta l'udienza. È accaduto oggi in un processo per presunte infiltrazioni mafiose nel business delle pale eoliche. Il processo è stato rinviato al 30 di novembre. Ed ora invece parliamo di quello che è accaduto a Roma, l'Assemblea degli Industriali di Roma. Allora, Allora, diciamo, l'Assemblea degli Industriali di Roma, dove è intervenuto il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, ma ovviamente sotto traccia c'è ancora la discussione sulla politica economica del governo, se debba essere di stretto rigore oppure se ci siano degli spazi, dei margini di manovra per le spese. E proprio stavamo chiudendo le notizie in breve con questa notiziola che riguarda l'udienza saltata a Palermo per la mancanza di benzina per un cellulare, però insomma sembra che la giustizia, anche la giustizia, soffra di carenze dal punto di vista economico, e proprio dal ministro della giustizia Angelino Alfano sono arrivate le ultime richieste al responsabile dell'economia Tremonti, accusato da alcuni ministri di tenere i cordoni della borsa troppo stretti in questo momento in cui anche l'OCSE vede una ripresa per quanto riguarda l'Italia. Oggi il ministro Alfano ha detto che si batterà per avere più risorse, mi batterò io stesso per avere più risorse per il settore giustizia, ha detto, mi impegno a fornire risposte concrete e rapide. E questa è solo l'ultima richiesta che viene fatta al ministro Tremonti, un conto abbastanza lungo che va dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che in tutto chiede per fare fronte alle riforme in agenda come quella della banda larga, quella del credito d'imposta, sono 5 miliardi e 2 la richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, e poi quelle del Ministero del Lavoro e della Salute, 4 miliardi, l'ambiente chiede per le bonifiche, per Kyoto, per la difesa del suolo 2,7 miliardi, 3 miliardi dalle infrastrutture, la richiesta del Ministero dell'Interno per la sicurezza di 1 miliardo, 3-4 milioni il Ministero per la Funzione Pubblica. Tra l'altro, paradossalmente, è stato proprio il ministro Brunetta che tiene il Ministero per la Funzione Pubblica l'unico a parlare chiaramente di richieste, ad avanzare al ministro Tremonti una richiesta precisa. In tutto, insomma, oltre 17 miliardi che i ministri vorrebbero poter spendere per le riforme progettate e che forse non si riusciranno, per le quali forse non si riuscirà a trovare la copertura. Oggi però il ministro Tremonti ha ostentato un certo ottimismo. A Roma per noi c'è Vincenzo Miglietta. Buonasera Vincenzo. Buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, tu hai seguito per noi questa assemblea dell'Unione Industriali dove appunto c'era il ministro Tremonti che appunto ha parlato di una crescita dell'1% per il prossimo anno. Sì, è così, il ministro ha lasciato per una volta da parte il quindi la sua cautela che lo contraddistingue ultimamente, forte forse anche dei dati che arrivano da diversi istituti internazionali, da ultimo l'OCSE di ieri, che indicano come l'Europa stia uscendo dalla crisi. Lo stesso Tremonti quindi ha avanzato per il prossimo anno delle stime positive per il prodotto interno lordo e ha parlato della possibilità per il nostro paese di raggiungere l'1%, se non addirittura un valore superiore all'1%, ma su questo possiamo ascoltare proprio il ministro Tremonti. Meno 1, meno 5 di prodotto interno lordo. Può essere, e noi tutti speriamo, e l'abbiamo anche scritto nei documenti ufficiali, obbligati dalla legge a formulare previsioni, obbligati dall'Europa a formulare previsioni, può essere che il 2010 chiuda con un segno positivo, particolarmente positivo. Supponiamo 1 o più di 1. Ma notiamo che non è un 1 sopra, è un 1 da sotto. Un conto è avere 0 e poi più 1, più 2, più 3, come è stato negli anni passati, un conto è risalire da meno 6. E fa, come dire, una certa differenza dentro un sistema che è costruito sul presupposto che le dinamiche del funzionamento dello Stato e della spesa pubblica e gli automatismi, i diritti e le aspettative complessive siano tutti sul presupposto di una crescita più uno, più due da sopra, e poi ancora si faceva il deficit. È un po' diverso il contesto se parti dal basso. Per essere chiari, se tu perdi 80-90 miliardi di PIL, perdi 30-40 miliardi di entrate, ma non puoi pensare che essendo caduto il PIL hai titolo per negare, agli ammalati le medicine, ai pensionati la pensione. Non si indicizzano quelle voci se non al margine o nei tendenziali. Nel tempo presente non gli puoi dire sono finite le entrate, sono finite le prestazioni. E credo che sia, nonostante tutto questo esercizio, un investimento di coesione e di tenuta sociale. Questo era il ministro Tremonti, e a Roma ha parlato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, che ha detto che insomma bisogna dare atto al ministro di portare un peso delle scelte impopolari del governo. Sentiamo Letta. Dobbiamo dare atto di aver tenuto salda la barra dei conti pubblici in un anno di tempesta, tra marosi e pericoli che avrebbero potuto far affondare un vascello come quello della nostra penisola. Lo ha fatto caricandosi il peso e la responsabilità anche di scelte impopolari, interpretando da par suo la politica del governo, che è una politica di rigore che ci ha riaperto il rispetto e la considerazione in Europa, e lo ha saputo fare con sacrificio, perché certo sarebbe più facile e più gradito a tutti poter dire sì anziché no, ma l'ho dovuto fare guardando all'interesse superiore della nazione, in un momento in cui la crisi poteva veramente farci del male. Insomma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha così, anche se non esplicitamente, parlato delle polemiche sollevate all'interno della stessa maggioranza, in particolar modo dal ministro Brunetta, che aveva parlato di veti ciechi da parte del Ministero del Tesoro, dando atto a Tremonti di aver portato il peso di una politica di rigore. Vincenzo Miglietta, si è parlato anche della possibilità o meno di un taglio delle tasse? Sì, è così, bisogna fare una premessa. Tremonti ha ricordato che la coperta è corta, pur essendo in un momento in cui si sta uscendo dalla crisi. Tremonti ha ricordato i meriti del governo di aver garantito con le poche risorse a disposizione ai cittadini, pur nella crisi, quindi gli stessi standard di servizi essenziali del passato, dalla scuola alla sicurezza. Ha ricordato la sanità, non la possiamo toccare, costa meno che negli altri paesi europei, però ha voluto fare... Si è voluto sbilanciare su un punto, lo hai anticipato giustamente da studio, la riforma del fisco la faremo, ha detto Tremonti, prima della fine della legislatura. Sentiamo Tremonti. Dobbiamo cominciare a riflettere anche sulla riforma fiscale, ma in prospettiva lunga e certamente sotto il vincolo del bilancio. E io ho cominciato a parlarne con il Presidente del Consiglio e continuerò a farlo, ma con la fondamentale esigenza della prudenza nella gestione di una materia così complessa. Faremo al termine della legislatura anche la riforma fiscale, e sarà mirata al lavoro, alla famiglia, e sarà realizzata. Io ho avuto tante volte occasione di sentire riforma delle pensioni e dico, beh, se vuoi fare la riforma delle pensioni presenta un disegno di legge, ce lo farò domani. Quel domani era in luglio. Noi abbiamo fatto per esempio una norma che allinea il sistema italiano alla migliore pratica europea. Il sistema italiano, in base a una norma che è stata introdotta nel decreto di luglio, è diventato tra i più stabili d'Europa. Se uno mi dice devi fare la riforma delle pensioni, la risposta onesta che ti dicono tutti gli osservatori internazionali è già stata fatta, perché l'agganciamento delle pensioni alla demografia, l'Italia è uno dei pochissimi paesi in Europa che ce l'ha. E infatti siamo nei paesi, nel blocco dei paesi medi, e dentro quel blocco il paese è tra i migliori. Le parole di Tremonti sul possibile taglio del fisco entro la fine della legislatura. Tremonti ha parlato anche della bontà della riforma delle pensioni, ha annunciato un emendamento invece alla finanziaria, che ricordiamo è arrivata oggi alla Camera, sui tagli ai costi della politica a partire dai costi relativi alle province. Sentiamo questo passaggio. Il costo politico delle province è 200 o 300 milioni. E si può risparmiare su quello, e sarà fatto, e in finanziaria stiamo studiando una norma molto forte, molto maltusiana sul numero degli assessori e dei consiglieri comunali, provinciali, eccetera, ma non andiamo in giro a dire che se si eliminano le province si risparmiano 8 miliardi. perché comunque ha il costo delle scuole, il costo delle strade e così via. Quindi federalismo fiscale va costruito, ma va costruito in modo serio e non in modo show, come è troppo d'uso fare. Dal palco dell'Assemblea dell'Unione degli Industriali di Roma ha parlato anche il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Sentiamo. Io credo davvero che sia venuto un momento in cui il Paese deve cambiare marcia, il Paese deve ritornare a unirsi per progettare il proprio futuro. Rimanere fermi, rimanere legati, come dire, a quello che abbiamo fatto in passato non va bene, questo rischia di in qualche modo condannarci a una crescita troppo bassa, e una crescita troppo bassa vuol dire un problema nel mantenere i posti di lavoro, un problema molto forte a mantenere viva e forte una parte del nostro sistema manifatturiero. E certamente una crescita bassa vuol dire anche un problema sulla stabilizzazione del debito pubblico. Quindi io penso davvero che sia venuto il momento di cambiare marcia, di farlo tutti insieme. Qui non è il problema di dire la politica deve fare di più, il sindacato deve fare di più, la Confindustria deve fare di più. Qui serve uno sforzo corale molto significativo, dove il Paese in questo momento, ripeto, deve proprio cambiare marcia, deve sedersi, unirsi e avere la capacità di riprogettare il proprio futuro, perché è proprio in questi mesi, con le scelte che faremo adesso, che noi plasmeremo un po' quello che abbiamo davanti. Emma Marcegaglia ha detto: rimanere fermi e legati al passato non va bene, perché rischiamo di condannarci a una crescita troppo bassa. Poi ha parlato anche del mercato del lavoro. Noi andremo incontro, almeno per un certo periodo, a un ritorno molto graduale alla crescita, ma senza la creazione di nuovi posti di lavoro. Questo è un tema di grande preoccupazione da parte di tutto, riguarda il nostro Paese, ma riguarda l'Europa e gli Stati Uniti, e non v'è dubbio che se noi fino ad oggi abbiamo tenuto molto bene, abbiamo la consapevolezza che i prossimi mesi da questo punto di vista potrebbero essere complessi, dovremo gestire insieme ai sindacati, insieme alle istituzioni, alcune situazioni di riconversione, di ristrutturazione, ahimè anche di chiusura, quindi questo richiederà una grande concentrazione, come dicevo prima, un grande senso di responsabilità per quando si parla di posti di lavoro, di persone che rischiano di perdere il proprio posto. Chiaramente questo richiede concentrazione, serietà e grande attenzione. Questa era Emma Marcegaglia all'Assemblea dell'Unione degli Industriali di Roma. Ringraziamo Vincenzo Miglietta, che ha raccolto per noi queste voci, ha seguito l'Assemblea questa mattina. Bentornati a Focus Economia, ora è il momento di parlare di mercati finanziari, una giornata con il segno meno per le borse in Europa, che poi hanno continuato la giornata in negativo, trascinate al ribasso ancor di più dall'andamento di Wall Street. Il Nasdaq cede lo 0,65%, il Dow Jones lo 0,57%, i mercati in Europa, dicevamo, in calo, ma il calo peggiore forse è proprio quello di Piazza Affari, il FTSE MIB meno 1,08%, il FTSE Italy Share meno 0,92%. Buonasera Livia Zancaner, collega di radio con il Sole 24 Ore. Buonasera. Mi sembra di capire che siano stati il settore bancario ed auto in Europa, ma anche a Milano, ad appesantire il listino. Sì, allora, in realtà bisogna dire che i listini oggi sono stati colpiti dalle prese di beneficio dopo i rialzi della vigilia. A penalizzare maggiormente le borse europee sono stati appunto il settore bancario, che ha ceduto oltre un punto percentuale, e il settore auto, che ha ceduto circa lo 0,8%, e quindi la stessa performance è stata realizzata a Piazza Affari, con il Banco Popolare che è risultata la peggiore del listino, in calo di oltre il 3%. Banco Popolare oltre 3%, poi Intesa San Paolo vedo meno 0,5%, gli altri titoli ancora in negativo per quanto riguarda le banche. Sì, allora bisogna dire che Unicredit ha ceduto l'1,95%, mentre ha viaggiato in controtendenza MPS, che ha guadagnato lo 0,9%, così appunto come Intesa San Paolo, come hai detto tu, che è salita dello 0,5%. Unicredit meno 1,95%, poi sempre per quanto riguarda le banche, meno 1,37% Mediobanca, vedo. Dicevi Popolare meno 1,13%. Sì, il Banco Popolare meno 3,17% ha perso. Per quanto riguarda invece la Fiat? Allora, Fiat ha ceduto il 2,5% e il socio di riferimento Exor il 2,3%, appunto sulla scia dell'andamento negativo del settore auto in Europa. In realtà nelle ultime sedute Fiat ha mostrato un andamento decisamente altalenante. Bisogna ricordare che venerdì il titolo ha perso quasi il 5%, risentendo della revisione al ribasso del giudizio da parte di UBS, mentre ieri ha recuperato e ha chiuso a più 3,5%, nonostante Fitch abbia posto la società sotto auto negativo Credit Suisse abbia rimosso le azioni dalla lista dei titoli preferiti. In particolare oggi poi vi è stata Société Générale che ha alzato l'obiettivo di prezzo sul lingotto a 11,9 euro, mentre il mercato è in attesa sempre di novità dopo l'incontro che è stato fissato il 1° dicembre tra l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne e il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Abbiamo un problema con l'aggiornamento qui del nostro database che ci dà gli aggiornamenti di borsa, quindi non sempre io li ho aggiornati, quindi ti chiedo un aiuto in questo. Pirelli, giornata per Pirelli positiva. Sì, giornata positiva per Pirelli che ha chiuso a più 0,91%, registrando la migliore performance sul paniere principale. Le azioni sono state trainate dall'incremento del prezzo obiettivo da parte di Morgan Stanley da 0,45 a 0,52 euro con raccomandazione overweight e anche dalle attese su una riorganizzazione del gruppo, in particolare per quanto riguarda il comparto real estate. Per quanto riguarda il giudizio degli analisti, allora la banca d'affari ha spiegato di aver alzato target e stime su utili dopo la pubblicazione dei conti al terzo trimestre e il miglioramento dell'outlook sul segmento pneumatici, oltre a un livello di indebitamento che è risultato migliore delle attese. Per quanto riguarda Italise, giornata incerta? Sì, allora bisogna dire che Italisa ha iniziato la giornata in deciso rialzo, oltre quindi più o meno il 3%, e ha chiuso invece a più 0,74%, ridimensionando quindi gli acquisti registrati in avvio di seduta. E la banca praticamente ha annunciato ieri in tarda serata di aver determinato le condizioni definitive per quanto riguarda l'offerta in opzione agli azionisti, quindi all'aumento di capitale che avverrà al prezzo di 0,712 euro per ciascuna nuova azione. Negativa in pregilo, prese di beneficio in questo caso dopo i guadagni. Sì, allora assolutamente, Impregilo ha ceduto il 2,5%, mentre alla vigilia aveva guadagnato il 4,15% grazie proprio alla notizia che la Corte d'Appello di Firenze ha sospeso la condanna per il pagamento della provvisionale di 150 milioni di euro al consorzio Cavet, di cui appunto fa parte Impregilo. E infatti dopo si tratta comunque di prese di beneficio, in quanto anche gli analisti dopo l'annuncio sono rimasti positivi sul titolo. Ad esempio Equitasim ha ribadito giudizio buy e un target price a 3,35 euro, sottolineando che la notizia è assolutamente positiva per Impregilo poiché permette alla società di affrontare il secondo grado di giudizio senza subire misure che possano incidere negativamente sulla gestione finanziaria del gruppo. Livia, oggi il petrolio ha aperto in ribasso a New York, i titoli legati a questa materia prima? Sì, allora Tenaris ha ceduto il 2,6%, bisogna ricordare che il titolo arriva comunque da alcune sedute di rialzi, Eni ha perso l'1,62%, mentre Saipem ha chiuso più o meno sulla parità con un rialzo dello 0,09%. Per quanto riguarda invece le telecomunicazioni, Telecom, oggi è stata una giornata negativa? Allora, Telecom sul paniere principale ha chiuso in flessione dello 0,63%. Per quanto riguarda il settore a livello europeo, allora il settore TLC ha chiuso più o meno sulla parità, segnando un ribasso dello 0,11%. Bisogna ricordare perché per quanto riguarda Telecom il mercato è in attesa da una parte del Consiglio di amministrazione del 2 dicembre, in cui verranno prese in esame anche la situazione degli asset esteri, tra cui probabilmente Telecom Argentina, ma il mercato aspetta soprattutto il piano industriale che, secondo quanto ha dichiarato il presidente di Telecom Gabriele Galateri, si terrà a febbraio, verrà quindi annunciato a febbraio. Ci chiede un ascoltatore che si è collegato ora quanto ha perduto Unicredit. Unicredit ha ceduto l'1,95%. Ecco, speriamo che sia soddisfatto. Tutto il settore bancario, dicevamo, in negativo quest'oggi, quindi anche Unicredit non fa la differenza, insomma. No, infatti appunto abbiamo, anzi in realtà sì, Unicredit ha perso, ha fatto leggermente peggio del settore, il settore ha perso sì più o meno l'1%. Allora, per quanto riguarda le chiusure, le ripetiamo: il FTSE IT All Share ha chiuso a -1,06%, il FTSE MIB a -1,08%. Adesso diamo la viabilità. Io ringrazio Livia Zancanè per questo aggiornamento sui mercati, collega di radio con il Sole 24 Ore. Bentornati a Focus Economia, il numero per mandarci degli sms è 349-238-6666. Parliamo di call center, perché c'è un'azienda che ha una sede anche nella periferia nord di Milano, dove da ieri sono in assemblea permanente 400 dipendenti che sono assunti a tempo indeterminato, ma che sembra che non vengano pagati da un paio di mesi. Sono stati in assemblea, non c'è ancora... hanno avuto degli incontri con l'azienda, ma non c'è ancora una decisione chiara. Il presidente dell'azienda ha chiesto ai lavoratori di continuare a lavorare per mantenere le commesse dell'azienda in corso e ha promesso che da gennaio la situazione tornerà alla normalità. Omnia, questo è il nome dell'azienda, era quotata in borsa attraverso una serie di società, dava lavoro in Italia a oltre 3.000 persone, di recente ha ceduto le controllate Voice City Holding, partecipata al 70% da un socio finanziario, la East Investment, e al 30% dai manager dell'azienda. Ieri ci sono state le dimissioni di due dirigenti. Nella sede milanese lavorano circa 800 persone che rispondono al telefono per conto di Wind, H3G, Mediaset, insomma un call center, proprio il classico call center che ora sembra essere in difficoltà. La nostra Valeria De Rosa ha parlato con il segretario della CGIL per quanto riguarda il settore a Milano, Paolo Puglisi, sentiamo che cosa le ha detto. Noi abbiamo concluso l'assemblea, intanto abbiamo respinto la proposta dell'azienda che prevedeva il pagamento degli arretrati di ottobre, iniziava a pagarli con la fine del mese, poi il mese successivo a dicembre, e abbiamo chiesto all'azienda di pagare subito entro il 30 tutti gli stipendi arretrati di ottobre, di tutte le valute, perché qui avevano diverse scadenze, i lavoratori il 27, il 5 del mese dopo, il 10, il 15, il 29, di pagare entro il 10 di dicembre tutti gli stipendi di novembre, e solo a queste condizioni riprendono l'attività lavorativa. Se ci dichiarano e ci scrivono questo, la mozione A dice riprendiamo a lavorare subito, la mozione B dice non riprendiamo a lavorare fino a quando non arrivano effettivamente i primi pagamenti. E la situazione generale della Omnia è una situazione abbastanza critica, proprio a livello anche nazionale, se non sbaglio. Assolutamente sì, critica sì, perché questa nuova azienda, Voice City, che ha rilevato le aziende che prima erano del gruppo Omnia Network, che si è liberato quindi di tutto, gli ha scaricato i lavoratori, le attività e anche tutti i debiti, che sono quelli dichiarati alla borsa quando hanno ceduto le aziende, 20 milioni più 19 milioni di euro di debiti. Poi ci sono, e scopriamo tutti i giorni, che arriva un'ingiunzione di pagamento, fornitori che non ricevono i soldi, quindi è una situazione veramente drammatica dal punto di vista finanziario ma anche industriale dell'azienda. Oltre ai lavoratori di Milano, quali sono gli altri casi più critici, gli altri lavoratori che rischiano di più? Ma ci sono già quelli di Ivrea che sono stati avviate le procedure di licenziamento, quindi hanno chiuso un pezzo di azienda. Poi ci sono i lavoratori a Bitritto, i lavoratori a Roma, i lavoratori a Bari, i lavoratori anche all'Aquila, sempre di Omnia, che rischiano anche loro perché finiscono le commesse. Ci sono delle commesse che dai parte dei committenti sono in dubbio, perché l'altra cosa grave è che avendo l'azienda Omnia una montagna di debiti, non pagando anche i contributi previdenziali, non ha la certificazione per poter concorrere alle nuove commesse. Allora, abbiamo in collegamento Umberto Costamagna, che è presidente nazionale di Asso Concat, scusate, l'azienda che offre servizi di call center e contact center, proprio di contatto con gli utenti, appunto. Allora, Umberto Costamagna, buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi pare di capire che la situazione di Omnia non sia isolata. Ahimè, purtroppo no, la situazione di Omnia non è isolata. Diciamo che noi come associazione proprio in questi giorni stiamo lanciando un po' un appello al governo, alle organizzazioni sindacali per trovare un tavolo comune per guardare insieme tutte le aree problematiche che ci sono in giro. Stiamo parlando di un settore che negli ultimi 3 anni ha stabilizzato, trasformato cioè da collaboratori a progetto più di 26.000 persone con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Anche in Omnia la situazione ovviamente sono persone assunte regolarmente. Purtroppo questo è un settore che negli ultimi anni ha fatto registrare una marginalità negativa, e con una marginalità negativa ovviamente non si va da nessuna parte. Noi abbiamo anche provato a vedere quali sono le cause e soprattutto le nostre richieste concrete per far sì che da questa situazione di crisi si esca. Quanti collaboratori, quanti dipendenti rischiano ora una situazione simile a quella dei dipendenti che abbiamo sentito? Il nostro è un settore che occupa circa 80.000 persone in Italia, di queste più di 50.000 sono assunte, la maggioranza a tempo indeterminato, e poi ci sono dei 20-30.000 collaboratori. In questi anni probabilmente queste stabilizzazioni, ne abbiamo fatte 26.000, ripeto, in un settore di 80.000, quindi vuol dire quasi un terzo, hanno portato ovviamente un sensibile aumento dei costi del personale, ma è un cammino di qualità che abbiamo iniziato, come dire, convinti. Purtroppo la contrazione dei consumi, la crisi, le gare al massimo ribasso anche della pubblica amministrazione, che hanno più volte inquinato il nostro settore con diciamo dei prezzi al di sotto del costo del lavoro, la fiscalità imponente, lei pensi che l'IRAP, che è una tassa che incide sui costi del lavoro, le nostre imprese hanno l'85% dei costi rappresentati dal costo del personale, la mancanza di altri elementi specifici, hanno portato a questa situazione di crisi, da cui bisogna venirne fuori, perché altrimenti questo è un settore che involve e che lascerà a casa delle persone. Noi riteniamo che ancora siamo in tempo per uscirne, abbiamo parlato di un intervento sull'IRAP, perché l'IRAP è una tassa che in questo momento punisce le aziende che assumono, punisce le aziende che hanno tanti dipendenti, e questo è solo uno degli interventi sui quali vorremmo riflettere insieme alle parti sociali, insieme al governo. Quindi la fiscalità, diciamo, la fiscalità, è l'intervento proprio, che chiedete? Proprio perché le nostre imprese sono, come vengono definite, labor intensive, cioè il costo del personale è il costo principale, e quindi una fiscalità che interviene sul costo del personale anche in assenza di utili è una fiscalità che uccide chi ha tanti dipendenti. Questa è una situazione che riguarda in particolare quale aree? Perché noi abbiamo sentito questo stabilimento della zona di Milano, però so che anche in Sardegna ci sono dei casi simili. Ma ci sono casi simili in Sardegna, ci sono in Calabria, ce ne sono in Puglia, ce ne sono in Piemonte, quindi è veramente una situazione che sta, come dire, che sta giungendo a un punto veramente delicato. Noi, ripeto, vogliamo anche oggi, durante i convegni che qui stiamo partecipando. Oggi avete incontrato, no, il ministro del lavoro Maurizio Sacconi? Sì, poi lui non c'era, c'era il professor Piraboschi, abbiamo chiesto anche al ministro Scajola un intervento, e pare che si formerà un osservatorio nazionale sui call center, che può darsi che sarà già convocato nel mese di dicembre, proprio per cercare di fare insieme ognuno la sua parte. Questo è il momento in cui davvero politica, organizzazioni sindacali e imprese si devono mettere insieme per la salvaguardia di un settore. Salvaguardare un settore vuol dire salvaguardare i lavoratori e le imprese. I call center sono stati sotto i riflettori negli ultimi anni perché erano l'emblema del precariato. Lei mi dice che non è più così? Non è più così, ma poi vedete anche questo, in Italia ci sono, credo si parla, ci sono valutazioni dal 1 milione al 2,5 milioni di precari, noi ne abbiamo 25.000, quindi capisce che prendere a simbolo un settore che ne ha una cifra ovviamente alta, ma comunque ridotta rispetto al milione o ai milioni che ci sono in Italia, è veramente particolare. Ma noi la nostra parte l'abbiamo fatta, perché ne abbiamo stabilizzati 26.000 trasformandoli in contratti. Grazie. Di lavoro subordinato. Grazie Umberto Costamagno. Bentornati a Focus Economia, sono le 18, 8 minuti e 55 secondi, parliamo di merci e di trasporto attraverso le ferrovie invece che su gomma. Si è tenuto qualche giorno fa Merci in Treno, il primo forum internazionale per lo sviluppo del trasporto ferroviario merci, organizzato da Federmobilità, l'associazione che raggruppa i maggiori assessorati ai trasporti. Il trasporto merci in Italia com'è suddiviso? Su rotaia viaggia il 10% delle merci contro una media europea del 17,7%. Su gomma viaggia invece il 90% delle merci in Italia, mentre in Europa trasporto su gomma è del 76,7%. In Italia quindi la congestione stradale costa anche parecchio, 25 miliardi di euro l'anno si calcola, circa il 2% del PIL, il doppio rispetto alla media europea, con qualche svantaggio anche dal punto di vista dell'aria che respiriamo. Presenta il convegno organizzato da Federmobilità l'amministratore delegato di FS Mauro Moretti, che ha sottolineato come in Italia il trasporto merci su gomma applica di fatto una concorrenza sleale rispetto a quello ferroviario. Nell'economia di mercato quello che fa la differenza sono i soldi, i costi. Se i costi della strada sono neanche un quarto di quello che c'è in Svizzera, ma perché la gente deve andare in treno? La risposta sta solo lì. Tutte le altre politiche sono derivate. Allora, per poter fare sì che le nostre quote modali cambino, bisogna fare come gli altri. Bisogna incrementare i costi nella strada. Qui c'è un problema di concorrenza sleale tra modi e modi e tra settori e settori. Dobbiamo essere consapevoli che questa è la questione da vedere, perché se non partiamo da qui e continuiamo a ragionare di mille altre vicende, parliamo di aria fritta. Io ho convenienza andare sulla gomma perché è così. In Svizzera ho convenienza andare sul treno, considerando che poi c'è una tabella sugli incentivi che sono anche lì diametralmente opposti. Cioè, in Italia incentiviamo l'autotrasporto, parlavamo prima, quasi un miliardo o un miliardo, poco più, negli ultimi 3 anni, nelle ferrovie l'abbiamo tagliato tutto. Ora, su queste due tenaglie c'è tutta la discussione da fare. Capiamo la difficoltà delle risorse pubbliche che non ci sono, la difficoltà di affrontare il problema dell'autotrasporto, perché è un fenomeno non solamente economico, produttivo, è un fenomeno sociale, che peraltro è coerente con una crescita del nostro paese, di una polverizzazione degli insediamenti industriali e urbani che non è equivalente al mondo e che possono trovare un servizio efficace solo con mezzi altamente flessibili. Voglio semplicemente dire che non fa miracoli nessuno. Viviamo semplicemente gli effetti di queste cose. Cosa fare? Iniziare a un trend nuovo affinché si mettano assieme gli elementi per dare un colpo di barba, per iniziare a rivedere i costi dei due settori. E a proposito di trasporti, di viabilità, un ascoltatore ci segnala, Carlo, ci segnala un blocco sull'autostrada A8 bloccata dalla protesta dei lavoratori Fiat di Arese. Ancora difficoltà quindi per questo stabilimento, per i lavoratori, sono a rischio 200 posti di lavoro. Noi di Fiat parleremo tra poco, anche se parleremo dello stabilimento di Termini Imerese, un altro stabilimento a rischio per il quale l'amministratore delegato di Fiat sta ipotizzando una trasformazione o una chiusura. Scajola, il ministro per lo sviluppo economico, però ha detto è folle far morire Termini Imerese. Bentornati a Focus Economia, stavamo parlando dei lavoratori e della Fiat e delle affermazioni del ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola, che oggi da Doha è entrato nella discussione relativa allo stabilimento siciliano della Fiat. Ha detto sarebbe folle far morire un polo industriale come quello di Termini Imerese, su cui nel tempo sono stati fatti investimenti importanti e dove tutti mi dicono che la qualità del lavoro è molto buona. Una conferma è arrivata implicitamente dal ministro del lavoro Sacconi. Scajola parla per tutti noi, ha commentato il ministro Sacconi. Lo ricordiamo, lo stabilimento di Termini Imerese, per lo stabilimento è prevista una cessazione della produzione nel 2011. Dal 18 novembre i 1370 operai della fabbrica e gli oltre 800 dell'indotto sono in cassa integrazione. Dopo il rientro previsto per lunedì 30 novembre, le linee che sfornano le Lancia Y si fermeranno ancora dal 21 dicembre al 6 di gennaio. Per analizzare la situazione ci colleghiamo con Giuseppe Berta, docente di storia dell'economia all'Università Bocconi di Milano ed editorialista della Stampa. Buonasera. Buonasera. Allora, ha sentito quello che ha detto il ministro per lo sviluppo economico? È folle far morire Termini Imerese. In realtà è un destino che sembra già segnato, è così? Si parla di molto, molto tempo del destino di Termini Imerese. Ricordiamoci che la sua sorte è stata già messa in discussione fin dal lontano 2002, quando la crisi Fiat si manifestò in tutta la sua gravità. Anche i responsabili della Fiat di allora dissero che non si poteva mantenere in piedi uno stabilimento che aveva costi elevati, ma per costi elevati non si intende soltanto il fatto dell'organizzazione meno moderna di altri comparti della Fiat, si intende soprattutto la posizione logistica. Non dimentichiamo che produrre un'auto a Termini Imerese implica dei costi di trasporto nettamente superiori ad altri luoghi industriali per la localizzazione dell'impianto. Dunque parliamo di una fabbrica vecchia, entrata in funzione nel 1970, con una localizzazione anche direi discutibile, perché chi ha visto quella fabbrica sa che sta in un punto di mare molto bello, dove si vedrebbe piuttosto oggi una bella struttura turistica invece di una fabbrica di automobili, e per di più di uno stabilimento che è invecchiato anche come forza lavoro e così via. Ciò significa condannarlo? Non credo. L'osservazione di Marchione io credo che vada anche nel senso di dire che quello stabilimento non può più essere adibito alla produzione di autovetture, ma può essere riconvertito a qualcos'altro. Ecco, che cosa? Qual è, può essere il futuro di Termini Imerese? Come lei ricordava, Marchione ha appunto detto non si faranno più auto lì. Ma, e che cosa si potrà produrre? Altre lavorazioni meccaniche io penso siano possibili, ma pensare che da lì escono delle auto complete, finite, e questo veramente mi sembra fuori di luogo. Nel senso che oggi, come abbiamo sempre ricordato, abbiamo una sovracapacità produttiva strutturale dell'auto che è enorme nel mondo. È chiaro che questa crisi obbligherà tutti a metterci mano, e fino adesso le politiche di incentivo in Europa hanno impedito che si facesse ciò che si è fatto in America, con dei drastici tagli degli stabilimenti e ahimè molto più dolorosamente dell'occupazione. In Italia io credo che mantenere una struttura industriale così variegata e composita e così frammentata, che non corrisponda più a degli obiettivi di razionalità della produzione, e dunque sia necessario trovare altre soluzioni. Quali? Io credo che qui serva davvero discuterne con gli enti locali, con la regione, vedere la stessa Fiat che cosa può essere stimolata a fare per riconvertire questi impianti, ma io non credo che si possa pensare ancora a lungo a tenere in vita impianti che sono anche vecchi come concezione progettuale, come logica organizzativa interna. Lo ricordiamo, per quanto riguarda la Fiat, gli altri stabilimenti sono quello di Mirafiori, 11.000 dipendenti, Cassino Piedimonte in provincia di Frosinone, 3.800 dipendenti, Pomigliano in provincia di Napoli, 5.000, Melfi, Potenza, intorno ai 5.000 anche qui dipendenti, e poi Termini Imerese in provincia di Palermo. E per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti della Fiat, ci sarà un incontro fissato per il 1 dicembre con l'amministratore delegato del Lingotto Sergio Marchionne, dopo il quale ci sarà un incontro con il Presidente del Consiglio e le parti sociali per esaminare il piano Fiat. Le parti sociali hanno appunto parlato anche oggi, il segretario confederale della CGL Susanna Camusso è intervenuta sul caso dell'impianto Fiat di Termini Imerese parlando a margine della 20ª tavola rotonda con il governo organizzata da Business International. L'ha intervistata per noi Maria Chiara Grandis. Noi sugli incentivi rispetto alle auto bisogna che proviamo a fare qualche ragionamento, anche a vedere cosa sta succedendo nel resto del mondo, perché l'anno scorso il nostro paese li ha fatti molto in ritardo quando tutti gli altri paesi li avevano fatti, con ovvi evidenti problemi poi di competitività. È evidente che se si dovesse decidere di dedicare delle risorse agli incentivi bisogna farlo con due vincoli precisi: uno è quello dell'occupazione e della produzione nel nostro paese, e l'altro vincolo però è la ricerca, perché c'è un tema che riguarda Fiat oggi e Fiat in prospettiva. È inaccettabile questa posizione che Marchionne ha più volte esposto, dell'idea che bisogna chiudere degli stabilimenti. Noi pensiamo che invece semmai c'è un problema di riequilibrio tra mercato italiano e quantità di automobili prodotte in Italia, e poi c'è un tema e una preoccupazione che cominciamo ad avere, che è quella che si stia pian piano pensando di spostare la ricerca dall'altra parte dell'oceano. Preferiremmo che ci sia chiarezza sul fatto che la ricerca è qui e che l'innovazione di questa grande impresa resta in Italia. L'Italia è un mercato di più di 2 milioni di automobili. La Fiat ne produce in Italia meno di 600.000. Cominciamo da questa sproporzione, non dalla chiusura degli stabilimenti. Torniamo in studio, professor Berta, anche il ministro Scajola ha detto: noi chiediamo a Fiat che venga aumentata la produzione industriale in Italia, dove immatricoliamo più auto di quante ne produciamo. Tutto il settore dell'auto, ancora Scajola, deve essere ristrutturato profondamente, ma questo non significa che in Spagna si possa produrre quasi il doppio delle auto che si producono in Italia. Ecco, la questione della produzione in Italia delle auto e gli incentivi, lei crede che possano essere collegati? Per un certo lasso di tempo sì, ma per un lasso di tempo molto limitato. A me sembra che vi sia una contraddizione in certe affermazioni, nel senso che è giustissimo chiedere che la Fiat consideri l'opportunità di produrre di più in Italia, che vada oltre quella soglia di circa 650.000 vetture che raggiunge quest'anno, cioè che la Fiat possa produrne di più. A me sembra possibile, però non con la medesima struttura industriale. Voglio dire, non è che questa maggiore produzione possa essere ugualmente spalmata in tutti gli stabilimenti, perché questo mi sembra esattamente una logica opposta. Se per produrre di più bisogna concentrare, allora bisogna puntare sugli stabilimenti più importanti, se si vuole davvero che in Italia resti la produzione automobilistica. Per quanto riguarda gli incentivi, sono un ponte per superare la crisi. Proprio oggi il ministro Scajola ha detto che il prossimo anno dovranno essere gradualmente ridotti, perché non si può continuare ad andare avanti a colpi di incentivi, perché questo a lungo andare un effetto contrario sul mercato. Dunque è chiaro che legare le dimensioni, i volumi di produzione agli incentivi nel medio periodo è un errore, perché è una produzione che deve potersi sostenere senza la stampella degli incentivi, ma deve essere commisurata alla possibilità di mercato quando gli incentivi finiranno. Questo è il discorso da fare, ma ripeto, questo discorso esige probabilmente una riconsiderazione attenta della struttura produttiva della Fiat in Italia. Parla di sovracapacità produttiva, anzi di una sottocapacità produttiva, scusate, in Italia anche il segretario generale della UIL Luigi Angeletti. Non c'è bisogno di chiudere stabilimenti, ha detto, e il segretario confederale della UIL Guglielmo Loi, sempre al microfono di Maria Chiara Grandis, al margine del convegno organizzato da Business International, ha ribadito questo concetto. Bene, va bene, vediamo cosa fanno. Certamente la prospettiva di Termini Imerese deve essere con un futuro certo, anche probabilmente con altre cose che non sia l'auto, o non solo l'auto. Se il governo interviene vuol dire che ha idea di un sostegno forte a un'impresa che possa competere sul mercato anche allargando la sua capacità produttiva. L'incentivo è una forma di intervento pubblico della fiscalità generale, quindi ci deve essere un beneficio per tutta la collettività. E quindi un'impresa che produce ricchezza è un beneficio per la collettività, lo scambio mi sembra giusto. Professor Berta, si parla anche spesso degli aiuti pubblici pro Fiat. 7 anni fa le stime del Ministero delle Attività Produttive parlavano di 4,5 miliardi di euro versati complessivamente alla Fiat proprio per sostenere Termini Imerese. C'è però tutto un indotto che ruota intorno a questa azienda. sì, modesto, Non possiamo pensare che il destino economico della Sicilia sia legato a un impianto del genere. La Sicilia non è una regione industriale, ricordiamocelo bene, gli assets, le capacità di crescita della Sicilia non possono essere legate alla produzione delle automobili, perché questa è una visione semplicemente antistorica, nel senso è la visione degli anni 70, quando lo Stato prometteva attraverso l'industrializzazione di elevare il reddito di tutte le regioni del paese. Ma ecco, è una visione di un industrialismo che non ha più ragione d'essere, in quanto nei paesi sviluppati tutti gli anni si riducono le dimensioni dell'occupazione nell'industria. Questo è un processo naturale, in quanto la crescita della popolazione industriale si registra in altre parti del mondo, nei paesi emergenti. Mi sembra dunque impossibile andare, come dire, marciare contro il senso della storia. Ciò che si può fare, dicevo, è cercare di bloccare o di rallentare questa emorragia, ma guai a fissare una struttura industriale che dovrebbe essere una struttura dinamica e mantenerla immobile nel tempo. A me sembra che in molte di queste posizioni ci sia, come dire, l'idea che si possa fermare semplicemente il tempo, e l'industria invece è in quanto tale un processo di trasformazione. Grazie professor Giuseppe Berta, docente di storia dell'economia all'Università Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Ed è tutto per questa puntata, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, ringrazio in regia Fabio Cantadori, da Valentina Furlanetto è tutto, Focus Economia torna domani alle 17, buona serata.